Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. I got a secret, starring Steve Allen. Quella che state ascoltando è la sigla di uno dei programmi televisivi americani più famosi di tutti i tempi, I've Got a Secret. Ogni settimana tra il 1952 e il 1957, questo appuntamento diverte e appassiona milioni di telespettatori, ospitando nei suoi studi un personaggio famoso del cinema, dello spettacolo, dell'arte, della moda, che ha un segreto da svelare e che deve essere indovinato da un gruppo di concorrenti. Special guest for the evening, the talented comedian, motion picture star, and now the author of the Broadway comedy hit play, Don't Drink the Water, here is Woody Allen. Good evening, my name is, Steve Allen, and we have with us Miss, who is first here, Olivia de Havilland and Betty Davis, and they have a secret. Distinguished international artist, Mr. Salvador Dali. Nel corso degli anni, la trasmissione svela i segreti che portano con sé i personaggi più disparati, da Salvador Dalí a Woody Allen, da Groucho Marx a Bette Davis. Oggi, a Destini Incrociati, vogliamo raccontarvi la storia di un uomo grandissimo, un artista unico che il 27 dicembre del 1965 si presenta negli studi di I've Got a Secret con un oggetto misterioso, parte del suo segreto da svelare. Ascoltate la sua voce. And remember you made me leader of the little band? L'avete riconosciuto? È inconfondibile, con il suo timbro roco, lo slang strascicato, l'allegria contagiosa. Ma se aveste qualche dubbio, ascoltate ancora. Il suono di questa cornetta è assolutamente unico, lo swing irripetibile, la tecnica senza paragoni. Il grandissimo artista che è pronto a svelare il suo segreto nella famosa trasmissione americana I've Got a Secret è il primo personaggio dei Destini Incrociati di oggi e il suo nome è Louis Armstrong. Louis Armstrong. Considerato il più famoso musicista jazz del XX secolo, Louis Armstrong rende popolare in tutto il mondo questo genere musicale, il jazz appunto, facendolo sconfinare dalla sua regione di origine, la Louisiana, e portandolo ai massimi vertici della popolarità internazionale. Carismatico, innovativo, con un talento immenso, Louis è un uomo profondamente semplice, le cui origini umili traspaiono dal suo sorriso sempre presente. Così lo ricorda una grandissima interprete che con lui ha duettato in diverse occasioni, la magnifica Barbara Streisand. Cantare con lui era come volare su una nuvola e poi farsi fare il solletico. Ridevi e gioivi insieme. È stato un uomo eccezionale. La sua allegria era contagiosa, non potevi stare seria. Cosa ci fa negli studi di I've Got a Secret Louis Armstrong e quale sarà il segreto che il grande trombettista è pronto a svelare davanti a milioni di telespettatori in tutta l'America? Presto lo sapremo. Ma prima torniamo indietro di parecchi anni e trasferiamoci negli Stati Uniti fino a New Orleans per scoprire qualcosa di lui e della sua vita fino a quel momento. Considerata la più importante città della Louisiana, New Orleans si affaccia sul Golfo del Messico e deve il suo nome a Filippo II di Orléans, principe di Francia. Chi la conosce bene dice che basta girare un'ora per le sue strade per avvertire prepotentemente il sapore particolare che la contraddistingue. Un sapore che è francese ed americano allo stesso tempo e che soprattutto è nero, dato che questo luogo ha ospitato per primo i neri provenienti dal Senegal. È in questo contesto così ricco di culture contrastanti che alla fine dell'Ottocento nasce una nuova forma musicale, diversa da tutto quanto esiste precedentemente, il ragtime. Ecco come lo descrive il critico musicale americano Rupert Hughes in un suo trattato del 1899. I neri chiamano ragging il loro modo di danzare, battendo i piedi. La danza è accompagnata con il battito delle mani. Nella musica ragtime, le figurazioni del banjo sono molto evidenti e la divisione di una delle battute in due note brevi si può far risalire proprio al battito delle mani. Il ragtime ha un successo strepitoso, soprattutto grazie a Scott Joplin. Maple Leaf Rag, del 1899, diventa famoso in tutto il mondo, vendendo 1 milione di copie dello spartito. Anche i musicisti bianchi cominciano a suonare il reggae, ma lo chiamano Dixieland. Le varie contaminazioni afroamericane, ragtime, Dixieland e swing, portano alla nascita di un genere musicale fra i più amati del mondo, il jazz. C'è una tradizione a New Orleans in quegli anni che influenza moltissimo l'evoluzione musicale. I cortei dei funerali dei neri, che vengono accompagnati sempre da una banda che suona marce funebri al seguito del feretro. Ma al ritorno dal cimitero, i parenti e gli amici vengono allietati da un'orchestrina, spesso improvvisata, chiamata Second Line, che suona invece allegra musica jazz. Queste Second Line si creano pian piano un repertorio e iniziano a esibirsi per le strade e nei locali malfamati di Storyville, il quartiere a luci rosse di New Orleans. È qui che il 4 agosto del 1901 nasce Louis Armstrong. In un'intervista a parecchi anni e numerosi successi dopo, il grande artista parla così della sua città natale. Ogni volta che chiudo gli occhi per soffiare nella mia tromba, guardo nel cuore della buona vecchia New Orleans. Mi ha dato qualcosa per cui vivere. Storyville, nata per limitare la prostituzione in un'unica area della città, prende il nome da Sidney Story, assessore di New Orleans, il quale regolamenta il distretto sul modello dei quartieri a luci rosse legalizzati dai governi dei paesi del nord. Storyville viene poi chiusa durante la Prima Guerra Mondiale, ma quando nasce Louis è nel pieno del suo sviluppo. Il padre è inesistente, la madre si prostituisce e come per tutti i bambini del quartiere, anche per lui la strada è la sua casa e arrangiarsi è l'unico stile di vita che conosce. Mentre raccoglie carta straccia e giornali vecchi per le strade per poi portarli al macero dove gli danno in cambio pochi spiccioli, il piccolo Louis non si immagina certo che un giorno, molti anni più avanti, quello stesso quartiere sarà intitolato a suo nome. La sua mente è tutta concentrata sulla musica che sente dappertutto per le strade. Ascoltavo tutti i pionieri del jazz nero, Alphonse Picucci, Dory, Jelly Roll Morton, ma il mio favorito era Joe King Oliver. Quando lo sentì per la prima volta pensai: questo è il mio mito. Per il momento il giovane Louis ascolta solamente, ma la musica gli scorre nelle vene, tanto che improvvisa con alcuni amici un quartetto nel quale canta con voce tenorile. Riescono anche a fare qualche soldo che, come sempre, gli serve per sopravvivere in una condizione di vita al limite dell'indigenza. Ha solo 11 anni il piccolo Louis, parecchia fame e nessuna certezza nella vita se non quella di doversi alzare tutte le mattine e darsi da fare fino a sera se vuole mangiare qualcosa. Eppure ha sempre il sorriso stampato sulla faccia, una caratteristica che non lo abbandonerà mai per tutta la vita. Poi, un fatto incredibile, per certi versi drammatico, cambia radicalmente il corso della sua vita. È il 31 dicembre del 1912 e Louis si sta preparando con i suoi compagni di strada a festeggiare l'anno nuovo. Sua madre naturalmente ha il suo da fare e lui, come al solito, è abbandonato a se stesso. A Storyville si inizia a festeggiare presto, business is business, si sa, e i clienti che vengono nel quartiere a luci rosse devono trovare un'atmosfera allegra e divertente che li trattenga il più a lungo possibile e gli prosciughi il portafogli. Mentre sta per uscire dall'angusto quartierino che divide con la mamma, Louis si ricorda di aver visto qualcosa che in quel preciso momento gli interessa parecchio. Nel comodino a fianco del letto la madre tiene una pistola, una calibro 38, forse semplicemente per sentirsi un po' più sicura, vista la sua professione. Louis la prende e carica. In fondo che male c'è? Tutti sparano a Capodanno, no? Per le strade la musica è altissima. Che sia ragtime o Dixieland per i neri di Storyville, è un suono che arriva fin dentro l'anima. Oh, I wish I was in Gypsy. Sta per scoccare la mezzanotte a Storyville. Il quartiere a luci rosse di New Orleans festeggia con grande partecipazione. Louis Armstrong ha solo 11 anni, ma la pistola che tiene tra le mani non è un giocattolo come dovrebbe essere vista la sua età. È una calibro 38 carica e pronta a sparare. Cosa che puntualmente succede. Per salutare il nuovo anno che arriva, il piccolo Louis spara due colpi in aria. Per Louis è esaltante. Si sente grande, potente. I suoi amici lo guardano con rispetto e ammirazione perché lui ha una pistola vera, lui è un uomo. Il caso vuole, la sfortuna, pensa lui, che da quelle parti passi un poliziotto. È un agente che da anni è assegnato alla zona di Storyville e ne è stufo marcio. Quella sera poi se ne starebbe volentieri a casa sua con la sua famiglia, magari a tavola davanti a un bel arrosto con le patate al forno. E invece gli tocca star lì, in quel malfamato quartiere a luci rosse, crocevia di ogni sorta di delinquenza e abitato dalla feccia della città, frequentato da ladri, ricattatori, giocatori incalliti, usurai, tutta gente poco raccomandabile, ma anche da cittadini rispettabili che vanno lì solo per divertirsi una sera, e lui deve difenderli. Quel ragazzino che spara in aria con una calibro 38 ha la stessa età di suo figlio e lui decide di portarlo via da lì. In qualità di giudice del Tribunale dei Minori di New Orleans, dopo aver visionato gli atti e aver parlato con il ragazzo, ritengo che il giovane Louis Armstrong non sia da considerarsi un delinquente. Ma vista la sua situazione familiare e lo stile di vita al quale è costretto, decreto l'internamento per 2 anni presso il riformatorio di zona. È l'unico modo, Louis, per toglierti da quelle strade. Si becca 2 anni al riformatorio. Niente di male, pensa il piccolo Louis. Di sicuro in riformatorio mangerà tutti i giorni e dormirà al caldo. Quando varca le porte del Colored Waves Home for Boys, un sorriso smagliante gli illumina il viso e lo fa risultare subito simpatico a tutti. Figuriamoci poi quando scopre che l'istituto ha al suo interno una scuola di musica, un coro e una banda. Mentre lo accompagnano alla sua camerata, Louis vede passare i componenti con gli strumenti tra le mani. E in quel preciso momento ha la netta sensazione che la sua vita stia per cambiare. Il professore che accompagna i ragazzi della banda verso l'aula di musica è alto, magrissimo, con il volto scavato e 2 occhi pieni di dolcezza. 2 occhi che Louis Armstrong non dimenticherà mai. Il mio affetto per la Waves Home è grandissimo. Mi sento a casa tutte le volte che ci torno. Potrei perfino terminare la mia vita lì un giorno, quando sarò anziano. Potrei starmene lì e occuparmi dei ragazzini, come faceva a quel tempo il mio fantastico professore, il più grande di tutti. Ma chi è quest'uomo del quale il grande Armstrong parla con tanto affetto? Cosa ha rappresentato per lui in quegli anni? È il suo professore di musica, che il destino gli fa incontrare nel riformatorio e che cambia completamente la sua vita. È il secondo personaggio dei Destini Incrociati di oggi. E il suo nome è... Ma no, non vogliamo rivelarvi noi l'identità di questo uomo. Lasciamo che sia lo stesso Armstrong a farlo. Torniamo a quel 27 dicembre del 1965, negli studi del programma I've Got a Secret, dove abbiamo lasciato il grande artista che sta per svelare il suo segreto. Panel, it's now time, as I just said, to meet our special guest for the evening. And ladies and gentlemen, 2 of the most important words in the history of American jazz and popular music. Louis Armstrong. 2 tra le più importanti parole nella storia del jazz. Louis Armstrong. Il presentatore di I've Got a Secret, Steve Allen, presenta così il grandissimo trombettista, considerato universalmente una star e ricercato da tutti i teatri del mondo. Un uomo che nel 1965 ha 64 anni e ha suonato davanti a milioni di fan. Armstrong appare da dietro la tenda che separa il backstage dal palcoscenico e la prima cosa che si vede di lui è il suo immenso sorriso. Tra le mani, l'artista ha un oggetto misterioso. I concorrenti devono indovinare di cosa si tratti e quale segreto esso celi. Dopo parecchie domande alle quali Armstrong risponde sempre in maniera esilarante, tanto che pubblico, concorrenti e lo stesso presentatore non riescono a trattenere le risate, si scopre finalmente quale sia la natura dell'oggetto. Una tromba. Una vecchissima e arrugginita tromba di latta. Le domande si susseguono per scoprirne la provenienza. Chi gli ha dato quello strumento? Mr. Armstrong, was this person your teacher? Era forse il suo primo maestro? Chiede la concorrente. Armstrong annuisce e sfodera uno dei suoi più disarmanti sorrisi. Sì, quella tromba tutta arrugginita e ammaccata è stata la sua prima tromba che un giorno di moltissimi anni prima un uomo, il suo maestro alla Waves Home, gli ha messo tra le mani perché non l'abbandonasse mai più. Ecco svelato il segreto di Louis Armstrong. I suoi esordi come trombettista risalgono a quando si trovava in riformatorio. Un segreto che il grande musicista decide di svelare davanti a tutta l'America per rendere un doveroso omaggio a colui che un giorno ha avuto la fortuna di incrociare sul suo cammino. Il suo primo maestro di musica. Colui che senza ombra di dubbio ha trasformato un piccolo teppista destinato alla strada e a una vita difficile in un mito della musica mondiale. È il secondo protagonista dei Destini Incrociati di oggi. E il suo nome è Peter Davis. Peter Davis. Now, as I say, I'd like to have the gentleman come out who gave Louis his first music lessons 53 years ago, Mr. Peter Davis. Here he is. Sul palcoscenico del programma I've Got a Secret, il momento è estremamente commovente. A breve avverrà l'incontro tra il maestro e l'allievo, tra la grande star internazionale e colui che ha reso possibile questo sogno, tra un uomo che è il mito di milioni di appassionati del jazz e il suo mitico primo maestro. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo oggi negli studi del fortunato programma televisivo americano I've Got a Secret. È il 27 dicembre del 1965 e Steve Allen, il famosissimo presentatore, ha da poco accolto sul palco un grandissimo uomo di spettacolo, il più grande trombettista di tutti i tempi, nonché favoloso cantante jazz, il mitico Louis Armstrong. Nella miglior tradizione del programma, l'artista ha un segreto da svelare e per far questo ha portato con sé una cornetta, una tromba di latta tutta arrugginita che è stata il suo primo strumento. I concorrenti hanno appena indovinato che si tratta appunto della sua prima tromba e che gli è stata data dal suo primo maestro di musica. Quando ha solo 11 anni, Armstrong entra al Colored Waves Home, riformatorio dei ragazzini neri del quartiere a luci rosse di New Orleans, Storyville. E ora questo maestro, che il destino ha voluto mettere sul cammino del piccolo Louis, cambiando per sempre il corso della sua vita, è nel retro del palco e attende di incontrare nuovamente, dopo tanti anni, il suo grande allievo. Il presentatore lo ha appena chiamato. È Peter Davis. Mr. Peter Davis. Ma prima di accogliere sul palco l'anziano maestro di musica del grande Louis Armstrong, scopriamo insieme chi è, qual è la sua storia e quali sono le sue origini. Tornando indietro nel tempo di parecchi anni. Nel XVI secolo le potenze europee iniziano a creare insediamenti nelle Americhe, dove dar vita a immense piantagioni e sfruttare le ricchissime risorse minerarie. In entrambi i casi è indispensabile una gran quantità di manodopera pesante. È l'inizio della schiavitù. Si calcola che la cosiddetta tratta atlantica verso le Americhe, che dà il via a una vera e propria economia basata sullo schiavismo, porti qualcosa come 12 milioni di schiavi dal Senegal e dal Benin nel Nuovo Mondo. Una moltitudine di gente, alla quale viene rubato tutto, la vita, la libertà, la speranza. L'unica cosa che gli rimane è la voglia di cantare la propria tristezza. Nasce così la bellissima e struggente musica degli schiavi neri, il blues. Il nome blues deriva dall'espressione to have the blue devils, letteralmente avere i diavoli blu, col significato di essere tristi. Nella lingua inglese, infatti, il colore blu è comunemente associato alla sofferenza, alla tristezza e all'infelicità, sentimenti che gli schiavi nelle piantagioni e nelle miniere esprimono con i loro canti ritmati, pieni di nostalgia per la loro terra e per la libertà perduta. La maggior parte dei generi musicali successivi trae origine dal blues, ragtime, spiritual, jazz, rhythm and blues. Anche dopo il 18 dicembre del 1865, data della ratifica della sua abolizione negli Stati Uniti, la schiavitù con la sua anima triste rimane nei canti e nelle composizioni degli artisti neri, che iniziano a portarli in giro per tutta l'America, decretandone un successo enorme grazie alla sua profonda spiritualità. Finire del 1880, New Orleans, cuore della Louisiana, è abitata dalle seconde generazioni degli schiavi giunti dall'Africa. Uomini liberi che lottano ancora per emanciparsi da una condizione che ha visto i loro padri vivere nelle piantagioni o nelle miniere, legati gli uni agli altri perché non potessero fuggire, proprietà dei loro padroni bianchi. Da uno di questi uomini, sopravvissuto con la sua famiglia agli stenti della schiavitù, nasce una mattina di primavera Peter Davis. La data esatta non si sa, non esiste un'anagrafe della gente di colore per il momento. Quello che invece si sa è che il piccolo Peter, fin da giovanissimo, ha un senso innato per la musica. È magrissimo, cresce a vista d'occhio e diventa il più alto del quartiere. Gli strumenti musicali per lui non hanno misteri. È normale vederlo girare per le strade di New Orleans suonando il trombone o una piccola cornetta arrugginita. Il suo talento è tale che viene segnalato dal parroco della sua chiesa di quartiere a una scuola di musica, dove Peter impara a leggere le note e ottiene un diploma in solfeggio e scrittura musicale. Ora potrebbe andare a insegnare in una scuola vera, anche in una scuola per i bianchi, ma lui ha in mente altro. Giravo spesso per le strade di New Orleans, suonando la cornetta o il clarinetto. Non mi accorgevo dove andavo e capitai a Storyville. Fu un colpo per me. La povertà faceva parte della mia vita, ma io avevo una famiglia, una madre e un padre, dei fratelli. Vedere tutti quei ragazzi abbandonati a se stessi, senza un posto dove andare, senza una guida, mi fece stare talmente male che presi la mia decisione per la vita. Avrei insegnato musica in quel quartiere. È così che Peter Davis diventa maestro di musica al Colored Waves Home, riformatorio di New Orleans che accoglie i piccoli teppistelli e i ragazzini completamente soli. La sua intuizione lo porta a creare, nel giro di pochi mesi, una banda e un coro, dando a ciascuno dei suoi allievi un ruolo che mette in evidenza le sue doti. E questa è una scelta che si rivela vincente. I ragazzini si appassionano, studiano forse per la prima volta nella loro vita e stanno lontani dalla strada e dai suoi pericoli. Un giorno, mentre sta rimettendo a posto alcuni spartiti, Peter Davis viene chiamato dal direttore dell'istituto. Sta per arrivare un ragazzino nuovo che il giudice raccomanda particolarmente perché non ha un padre e la sua mamma è una prostituta del distretto. Il suo nome è Louis Armstrong. Mi ricordo che mi fece subito capo della band e andavamo anche in giro per le strade. C'era gente che chiedeva al maestro Davis: possiamo dar loro dei soldi? E lui diceva: certo che potete. E così ci siamo comprati tutti gli strumenti nuovi. Peter Davis comprende subito, grazie alla sua consumata esperienza, che si trova di fronte a un vero fenomeno musicale. Mentre Louis suona quella cornetta un po' sgangherata, l'unica che la scuola gli fornisce e che si può permettere, il maestro sente distintamente il tocco del genio in quelle dita, il dono di natura in quelle labbra tanto carnose che gli faranno guadagnare il soprannome di Satchmo. E così gli riserva un trattamento speciale, dandogli lezioni di solfeggio, di musica, insegnandogli tutto quello che sa e scoprendo giorno dopo giorno come quell'allievo impari tanto velocemente da superare in breve tempo il maestro. Passati i 2 anni di riformatorio, Louis può lasciare la Colored Waves Home, ma il sodalizio con il suo maestro è appena cominciato. Il sogno sta per diventare realtà. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Destini incrociati. Destini incrociati vi porta oggi a New Orleans, in Louisiana, per l'esattezza nel quartiere a luci rosse chiamato Storyville. Qui, la sera dell'ultimo dell'anno, mentre tutti stanno per salutare l'arrivo del 1913, un ragazzino nero spara in aria con una calibro 38 rubata alla madre. Il suo nome è Louis Armstrong. Si aprono per lui le porte del riformatorio, il Colored Waves Home, dove avviene l'incontro della sua vita con un uomo che gli cambierà il destino per sempre, il suo primo maestro di musica, Peter Davis. Un talento come quello di Armstrong non può rimanere celato a lungo. Bastano poche lezioni perché il maestro comprenda la portata del dono di questo ragazzino. Trascorsi quindi i 2 anni di riformatorio, quando finalmente Louis può uscire, Peter Davis sa bene dove indirizzarlo. Da Joe Oliver, detto King, il miglior cornettista di tutta New Orleans, il suo mito. E così Louis, nonostante la giovane età, inizia a lavorare sodo. Durante il giorno suona sui battelli a vapore che portano in giro i turisti lungo il Mississippi. La notte si unisce alla band di King Oliver. E quando il proibizionismo porta alla chiusura dei locali di Storyville, come moltissimi altri gruppi musicali dell'epoca, anche Oliver, con tutti i suoi musicisti, si sposta a Chicago. Per il giovane Louis, che ormai si è fatto le ossa, è un musicista a tutti gli effetti e dimostra una bravura unica. Lasciare New Orleans alla volta di una nuova città e di una nuova vita è come dividere il suo cuore in due. L'abbraccio che si scambia con il suo maestro è comunque un arrivederci, non certo un addio. Ma la grande Chicago lo aspetta. Quello che Louis trova nella grande metropoli è delinquenza, corruzione, locali malfamati, bande di gangster rivali che spadroneggiano per la città, aggirando il proibizionismo e fornendo sottobanco alcolici ai locali. L'organizzazione malavitosa più potente in quegli anni si chiama Chicago Outfit ed è gestita da un tale chiamato Al Capone. Ma non c'è solo questo. L'atmosfera che si respira è molto elettrica, estremamente stimolante, e per le strade, ma soprattutto nei locali, si sente tanta buona musica. Dopo un po' di gavetta, Louis inizia a suonare con un gruppo tutto suo, gli Hot Five, che diventano poi gli Hot Seven, con i quali incide parecchi dischi. Chiede spesso consiglio al suo primo e unico maestro, Peter Davis, che è sempre presente nella sua vita e nelle sue scelte. Per uno come lui, che non ha mai avuto nulla e che ha vissuto un'infanzia fatta di povertà e privazioni, il successo e un lavoro che gli rende bene rappresentano quella sicurezza che non ha mai avuto. Per questo è felice e trasmette questa sua gioia anche agli altri componenti della sua band. Ecco cosa ricorda in un'intervista rilasciata alcuni anni dopo John Sansire, che suona il banjo nella sua band. Lavorare con lui era estremamente rilassante. Aveva sempre il sorriso stampato sulla faccia. Non lo vedevi mai triste o arrabbiato. Dava sempre il meglio come musicista perché era un grande professionista, ma sembrava che non gli costasse fatica. Era semplicemente felice. Dal dopoguerra in poi, per Louis, la strada verso la sua consacrazione è tutta in discesa, specialmente da quando inizia a cantare. E pensare che è costretto a farlo. Le sue labbra tendono a gonfiarsi a causa del contatto con la tromba, così per un po' non suona. Ma da un guaio ne deriva un bene. Mentre sta provando una canzone che andrà a incidere di lì a breve, Louis sta riflettendo proprio su questo. La sua vita è caratterizzata da fatti che in un primo momento paiono negativi, ma poi sono per lui una gran fortuna. Così è per il riformatorio, che gli fa incontrare il suo maestro, Peter Davis. E così è per le sue labbra, che lo avviano a una sfolgorante carriera di cantante e lo caratterizzano a tal punto da procurargli quel soprannome, Satchmo, labbrone, che gli rimane per tutta la vita. Saints go marching in. When the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. Here comes Trummy Young and his trombone wailing. Oramai tutto il mondo conosce il grande Satchmo. I duetti che lo vedono protagonista con i nomi più importanti della musica e dello spettacolo restano famosi non solo nella storia del jazz, ma in quella di ognuno di noi. Chi non lo ricorda sul palco con Ella Fitzgerald, con Dizzy Gillespie, Frank Sinatra, Duke Ellington, Bing Crosby? Nel 1964, tra l'altro, Louis Armstrong è protagonista di un fatto che rimane storico negli annali della musica mondiale. Il disco del duetto con Barbara Streisand, tratto dal film Hello Dolly, spodesta per alcuni mesi i Beatles dalla prima posizione della Top 100 di Billboard, la classifica dei dischi più venduti in tutta l'America. Ma Louis Armstrong non è solo questo. Il sorriso sempre presente sul suo viso e gli occhi che molti definiscono i più buoni dello showbiz raccontano molto di una persona che non si dimentica le sue origini. Solo dopo la morte si saprà che Louis non ha mai smesso di aiutare i bambini e i ragazzi della sua città, in special modo quelli che come lui non hanno una famiglia e vivono ai margini della società. Il suo legame con la Colored Waves Home, il riformatorio di New Orleans, dove passa 2 anni della sua adolescenza, non si spezza mai. E i suoi rapporti con l'antico maestro sono sempre molto stretti. La generosità è un dato saliente del suo carattere, come ricorda la moglie Lucille. Sono stata sposata con Louis per più di 34 anni e ho potuto vedere con i miei occhi quanto fosse generoso. Noi non abbiamo avuto figli, ma lui adorava i ragazzi e cercava sempre di aiutarli, soprattutto quelli che gli ricordavano quando era piccolo e non aveva niente. Ed ecco, ci siamo. Ora Louis sta per riabbracciare il suo vecchio maestro. Negli studi del famoso programma televisivo americano I've Got a Secret, dove ha appena raccontato la storia dei suoi esordi nel riformatorio, il grande artista è emozionatissimo. Il presentatore Steve Allen ha appena chiamato sul palco proprio lui, Peter Davis. Il sipario si apre e appare un uomo alto, magro, molto in là con gli anni, eppure elegantissimo. Fra i due non c'è un abbraccio particolarmente caloroso, solo un'emozionata stretta di mano. E poi i due iniziano a suonare insieme. E se il maestro suona in maniera stentata a causa dell'età, l'allievo fatica parecchio per l'emozione. Gli ultimi anni della vita di Louis Armstrong sono costellati di successi internazionali. In Italia rimane storica la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 1968, dove canta con l'amica di origini eritree Lara St. Paul la famosa canzone «Mi va di cantare». Ed è anche protagonista di un fatto divertente che racconta il presentatore di quell'edizione del festival, Pippo Baudo. Dopo questo, la fine della canzone, grandi applausi, incominciano When the Sands Go Machine. E quello parte per fare When the Sands Go Machine, dicendo io adesso faccio il concerto. Ravera, l'organizzatore, dice fallo smettere. Ma come lo faccio a smettere? E mi spingono, il mio primo festival, pensate, ero un poveraccio io, davanti a questa situazione. Io sono uscito con un fazzoletto, sai che lui usava il grande fazzoletto e si asciugava la fronte. Gli ho asciugato la fronte e gli ho detto stop, Mr. Anderson. Una delle ultime incisioni di Louis Armstrong è la canzone che state ascoltando, What a Wonderful World, che si potrebbe considerare una sorta di riassunto della sua vita e di tutti gli avvenimenti che gli sono capitati, primo fra tutti l'incontro fortunato con il suo grande maestro Peter Davis. Un incontro che ha trasformato completamente la sua vita e il suo mondo, rendendolo davvero un mondo meraviglioso. What a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini Incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.